Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Oggi torniamo finalmente a farvi sognare imprenditorialmente, riaprendovi le porte della Silicon Valley. Se avete un progetto di startup nel cassetto, se siete giovani ma soprattutto intraprendenti, non perdete la prossima mezz'ora su Radio 24, perché potrebbe rivelarsi la svolta della vostra vita. Svolta che potrebbe avvenire grazie anche alla testimonianza di un vostro coetaneo che sta sperimentando in prima persona la vita di startupper in California. L'ingresso nella puntata sarà garantito anche oggi dalle segnalazioni di Federico Fabiani di Scambi Europei, un appuntamento che è seguito ormai da veri affezionati. Nella seconda parte del programma tornerà invece Alessio Romeo con gli ultimi trend del momento per una carriera globale. Anche oggi la sua analisi sarà davvero imprescindibile, mentre in chiusura di trasmissione vi racconteremo un progetto di network che coinvolge i giovani italiani all'estero e che si è molto rafforzato negli ultimi mesi, qualora siate interessati a farne parte. Per ora non vi svegliamo di più, ma tra qualche minuto riceverete tutte le informazioni necessarie. E allora, tutto è pronto per trasferirci, almeno virtualmente, oltreoceano, destinazione California. Generazione Mobile. Lo spunto della settimana è in realtà una segnalazione utile per tutti voi appartenenti alla generazione mobile in tempi di mobilità ristretta causa pandemia. È online l'indice di sicurezza dei viaggi, uno strumento per monitorare la riapertura delle frontiere e i contagiati in ogni stato del mondo. L'idea è venuta a due giovani torinesi. Basta semplicemente digitare online il nome di un paese per scoprire la situazione coronavirus in termini di contagi e soprattutto verificare se le frontiere siano ancora chiuse oppure di nuovo aperte e qual è l'indice di pericolosità sanitaria attuale. Si tratta di un progetto pensato per i viaggiatori che vogliono monitorare la situazione nel mondo e per immaginare le prime rotte da percorrere laddove la situazione gradualmente lo potesse permettere. Per tutte le informazioni, generazioneviaggio.it/informazioni-coronavirus-tempo-reale/. Bene, siamo giunti a Toolbox, dove prosegue la collaborazione con il portale Scambi Europei. Ogni due settimane segnalazioni utili e imprescindibili, nonché molto aggiornate su tutte le opportunità di studio, stage, lavoro e volontariato in Europa e nelle istituzioni europee. Sentiamo allora cosa ha preparato per noi Federico Fabiani, fondatore di Scambi Europei. L'Agenzia Ferroviaria Europea, che ha sede nella città francese di Valenciennes, contribuisce all'integrazione delle reti ferroviarie del continente, rendendo i treni più sicuri e facendo sì che possano attraversare liberamente le frontiere nazionali. Attualmente questo ente offre due tipologie di tirocini in vari settori, dall'ingegneria alle risorse umane fino alla finanza e alla comunicazione. I tirocini standard hanno una durata di 10 mesi e iniziano il 1 settembre. I requisiti per accedere sono essere laureati, almeno in triennale, e avere una buona conoscenza dell'inglese. È previsto un salario di circa 1.300 euro al mese, più rimborsi per le spese di viaggio, ferie retribuite e un corso di formazione. Per quanto riguarda invece i tirocini per studenti universitari, questi sono riferiti ai giovani che sono ancora in corso e devono svolgere un periodo di tirocino curriculare obbligatorio, quindi non prevedono una retribuzione. La scadenza per candidarsi ai tirocini standard è il 31 maggio. Mentre per quanto riguarda i tirocini curriculari, le candidature sono aperte durante tutto l'anno. Un'azienda inglese specializzata nell'assunzione di personale multilingua è attualmente alla ricerca di 50 addetti customer care ad Atene. È richiesto un livello madrelingua di conoscenza di italiano e un livello di conoscenza della lingua inglese almeno B2. È anche possibile abbinare la conoscenza di un'altra lingua europea rispetto all'inglese B2 ed è apprezzata una precedente esperienza in ambito assistenza clienti e supporto tecnico. L'offerta prevede un contratto a tempo indeterminato con tempo pieno per 40 ore alla settimana, una formazione iniziale, una retribuzione lorda tra i 16 e i 18.000 euro l'anno. La scadenza per le candidature è il 20 maggio. L'European Chemical Agency è l'agenzia che si occupa dell'attuazione delle normative europee sulle sostanze chimiche e fornisce consulenza alle aziende sul loro corretto uso, in modo da preservare la salute umana e ambientale. Ogni anno l'agenzia offre a laureati in materie scientifiche, amministrative, umanistiche e dell'information technology vari tirocini retribuiti presso la sua sede di Helsinki, in Finlandia. Per candidarsi a questi stage è necessario aver ottenuto un diploma universitario o un titolo equivalente in uno degli ambiti rilevanti e essere in grado di comunicare in inglese. Gli stage prevedono una borsa di studio di circa 1.300 euro mensili e hanno una durata variabile dai 3 ai 6 mesi a seconda del compito e del ruolo affidato al tirocinante. La scadenza per candidarsi è lunedì 18 maggio alle ore 12. Ogni anno Europol, l'agenzia per la lotta al crimine dell'Unione Europea, offre una serie di stage per dare ai giovani l'opportunità di conoscere meglio le attività e il lavoro dell'agenzia. Gli stage vengono svolti negli uffici dell'Europol a Laia, nei Paesi Bassi, e hanno una durata dai 3 ai 6 mesi. Gli ambiti dello stage sono archivistica e amministrazione, diritto e relazioni internazionali, risorse umane e criminologia. Per candidarsi è necessario essere in possesso di una laurea o in corso di laurea o possedere un diploma pertinente con le attività di Europol, avere un'ottima conoscenza dell'inglese e di un'altra lingua dell'Unione Europea e avere una buona conoscenza delle applicazioni Microsoft Office. È previsto un rimborso mensile di 830 euro, oltre ad un rimborso per le spese di viaggio e l'assicurazione sanitaria. La scadenza per candidarsi a questi stage è il 17 maggio. Per tutte le informazioni, www.scambieuropei.info. È arrivato allora il momento di presentarvi il testimone della settimana. Si tratta di un imprenditore start-upper di soli 25 anni che ha portato la sua idea di impresa in California. È grazie ai suoi preziosi consigli che oggi vi traghetteremo verso una potenziale vita da innovatori a stelle e strisce. Buon pomeriggio, Edoardo Vallebella. Buon pomeriggio, Sergio. Allora, partiamo dall'inizio, Edoardo, perché in te la passione per le imprese innovative è sbocciata prestissimo, facendoti terminare anzitempo la carriera universitaria. Ci puoi spiegare come è avvenuto? Sì, io mi sono affacciato all'innovazione da prima addirittura dell'università, già dal liceo. Poi, quando ho iniziato l'università, sono andato a vedere per la prima volta un acceleratore di imprese e lì è sbocciato proprio l'amore per l'innovazione e per questo ho terminato la carriera universitaria. Prima di arrivare alla tua avventura americana, ci spieghi quali sono state in breve le tue tappe in Italia tra accademie e acceleratori di startup? Assolutamente, io quando sono andato a visitare questo acceleratore, nel mentre ho iniziato una ricerca su questi acceleratori, sono andato effettivamente a lavorare per uno di questi acceleratori durante il mio anno di università. Alla fine di questo anno io ho deciso di lasciare l'università per dedicarmi a tempo pieno alla parte di innovazione. Ho lavorato per un altro anno in un acceleratore di impresa, successivamente ho fatto il Innovation Lab, che era il percorso, diciamo, di imprenditorialità più importante in Italia, e poi ho deciso di lanciare la mia startup. Ho fatto un percorso di accelerazione in Italia, in particolare il Venture Group, e successivamente siamo arrivati in America. Un attimo solo, prima di arrivare con te negli Stati Uniti, ti faccio una domanda più generale sull'ecosistema che hai trovato in Italia per aspiranti start-upper. È maturo o per mettere la propria idea in rampa di lancio bisogna comunque trasferirsi in paesi più all'avanguardia? Allora, ti rispondo prima all'ultima domanda. Sicuramente non bisogna trasferirsi in paesi più all'avanguardia, si può fare in Italia, è tranquillamente fattibile in Italia. Sul fatto se è veramente maturo l'ecosistema, io ti posso dire no, non è maturo, però stiamo andando nella direzione giusta. Arriviamo adesso al dunque, premettendo che ti trovi attualmente in Italia, non sei negli Stati Uniti perché sei, come molti, rimasto intrappolato qui dall'emergenza Covid-19. Gli Stati Uniti, ricordiamo, hanno chiuso le frontiere agli arrivi da fuori del paese, quindi non puoi al momento tornare, quindi non ti possiamo neanche chiedere, come facciamo di solito, com'è la situazione perché non sei sul posto. Ma partirei, per cominciare con te, dalla tua idea di impresa STIP. Ci descrivi brevemente di cosa si tratta? Assolutamente, STIP è un'intelligenza artificiale per il digital customer care, quindi il servizio clienti per aziende medio-grandi. Diamo un servizio per automatizzare tutta la parte di attività che il customer care oggi svolge che non sono a valore aggiunto per il cliente. Quindi triplichiamo l'efficacia di un singolo operatore, riduciamo del 70% i costi dell'azienda e dell'80% il tempo di risposta al cliente. Come sei arrivato con STIP in California? Quanto è stato decisivo il programma di accelerazione che hai frequentato in Italia? Allora, il programma di accelerazione è assolutamente stato decisivo, nel senso che noi siamo entrati nel programma che eravamo una startup con un cliente, avevamo un po' di esperienza alle spalle, però sicuramente è stato veramente un programma di accelerazione per noi. Abbiamo consolidato soprattutto il nostro team e questo ci ha permesso di essere una startup buona anche per il panorama americano, quindi avere un po' di clienti, aver consolidato il team ci ha permesso di essere anche solo guardati da un acceleratore statunitense. E poi ecco, ci arriviamo, c'è stata la selezione in uno dei programmi di accelerazione dell'Università Americana di Berkeley ed è stato per te il vero momento di svolta. Come ci sei arrivato? Alla fine del percorso di accelerazione noi abbiamo aperto un round di investimento di 400.000 euro che abbiamo in realtà chiuso in 2 ore, quindi eravamo molto contenti di questo, ma nello stesso giorno ci ha chiamato Berkeley Skydeck, che era un programma di accelerazione dell'università, ora è un fondo di investimento privato, è il terzo acceleratore ormai più importante in California insieme a Y Combinator e 500 Startup, e loro ci hanno contattato e ci hanno detto: ragazzi, avete l'opportunità di venire qui e confrontarvi in un panorama totalmente diverso da quello italiano. Abbiamo stoppato il finanziamento italiano e siamo partiti per gli Stati Uniti. Dacci un'idea, come funzionano questi programmi di accelerazione oltreoceano? Quanto sono anche diversi rispetto a quelli italiani? Allora, sono totalmente diversi, soprattutto in una cosa: è molto meno scuola, cioè lì arrivi in un programma accelerazione quando già hai veramente un'idea di che cosa stai andando a fare, di che cosa è una startup, di come si fa un business. Non ti prendono per farti la scuoletta, mentre in Italia sei seguito, sono tutti attenti a come stai andando, lì ti buttano nella mischia e sei tu che devi emergere. Loro ti danno tantissimo supporto, ma sei te a doverlo chiedere, sei te a dover andare a trovare le risorse all'interno del programma di accelerazione. E coronavirus permettendo, a che punto sei ora nel percorso di crescita e consolidamento della tua idea di impresa? Allora, devo dire, il coronavirus paradossalmente, sembra brutto dirlo, ma ci sta aiutando, essendo un servizio che va ad automatizzare e quindi a scolpire anche il peso del customer care. Tantissime aziende ci si sono affacciate proprio in questo periodo. Abbiamo ormai 4 clienti enterprise in Italia, ne stiamo prendendo solo durante il coronavirus altri 5, e in America siamo in trattativa con 10 enterprise, 2 delle quali le posso nominare, una è Square e una è Frontier Airlines. E questo insomma dimostra che effettivamente, come in tutte le crisi, ci sono settori che chiaramente crescono e settori invece, lo sappiamo, stanno subendo colpi durissimi. È il momento adesso dei tuoi consigli, Edoardo, preziosi per tutti i giovani imprenditori innovativi o aspiranti tali. Come prepararsi alla presentazione della propria società negli States? Allora, innanzitutto prepararsi. Noi siamo partiti, devo dire, come ti dicevo, da un giorno all'altro, nel senso che ci hanno chiamato, noi abbiamo dovuto stoppare un finanziamento e andare lì, così un po' come si va in spiaggia, diciamo. E invece io consiglio sempre di prepararsi, di farsi un piano in mente, di decidere che si va là per un motivo preciso, perché il mercato è lì, eccetera, eccetera. Quindi la prima cosa è prepararsi e parlarne bene con tutto il team, perché è importante che si vada lì come team, come focus primario. E occorre avere, appunto, l'hai detto anche tu, un piano strutturato. Strutturato come? Strutturato nel senso di non pensare di andare là a replicare quello che si è fatto in Europa. Sono due mercati diversi. Bisogna andare là, secondo me, con la consapevolezza di dover studiare all'inizio. Cioè studiare quello che succede negli Stati Uniti, studiare come si approccia al business lì, studiare che cosa cambia del tuo business lì rispetto a qui. E quindi la cosa, secondo me, primaria è andare lì strutturando i primi 6 mesi, dicendo: ok, magari i primi 2 mesi studio, i secondi 2 mesi testo e gli ultimi 2 mesi dei 6 mesi del programma di accelerazione faccio fuoco con tutto quello che ho imparato fino a quel momento. Lo hai detto anche prima, non bisogna andare da soli, meglio andare in team, ma ti chiedo una cosa più relativa ora alla questione burocrazia. Quale visto richiedere se sei un giovane imprenditore innovativo? È davvero complicato questa domanda. Io dico sempre che il visto è molto una cosa personale. Allora, se si hanno dei soldi che si stanno portando lì, o da privato o da investitori, il visto più semplice da richiedere è il visto E2, che è proprio il visto investitore. Un altro visto plausibile è l'L1, che sarebbe quello per i dipendenti di una società da più di un anno che vanno in America perché la società sta facendo qualcosa in America. Comunque non è un approccio facile. Io quello che ho fatto all'inizio della mia esperienza è stato procurarmi semplicemente un B1 B2 che mi permetteva di stare lì 9 mesi, non pagato dalla società americana ma da quella italiana, però mi ha permesso almeno di ambientarmi in quel mondo all'inizio. Generazione Mobile si ferma per un attimo, ci sono Strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Bentornati a Generazione Mobile, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa puntata la testimonianza di Edoardo Vallebella, 25enne startupper che ha realizzato il sogno della vita portando la sua idea di impresa innovativa nel paese culla per eccellenza delle startup, gli Stati Uniti. E per essere ancora più precisi, Edoardo è approdato in California, vero e proprio centro gravitazionale di ogni startupper che si rispetti. Con lui stiamo stilando un vero e proprio vademecum imprescindibile per tutti i giovani imprenditori con un'idea in testa e con una vocazione internazionale. Riprendiamo allora l'ascolto. Generazione Mobile. Una soluzione forse poco nota, ma che tu sottolinei molto nell'email che hai mandato a Generazione Mobile @radio24.it, è la necessità di appoggiarsi a uno studio legale americano per sbrigare le pratiche. E perché e anche come trovarlo? Allora, assolutamente, questo è una cosa che io per primo, quando sono andato lì, ho detto dai, magari ce la facciamo da soli. No, nel senso, sia per il visto che per quanto riguarda tutta la parte burocratica del flip dell'azienda, ma comunque di costituzione, eccetera, eccetera. C'è un, secondo me, un problema, nel senso che costituire un'azienda negli Stati Uniti è facilissimo. Spostare un'azienda dall'Italia negli Stati Uniti è molto più complicato. E spostare le persone dall'Italia agli Stati Uniti è comunque più complicato, quindi è fondamentale appoggiarsi a uno studio legale non italiano possibilmente ma americano, che ti sbrighi loro tutte le pratiche, perché secondo me una persona che va lì a fare l'imprenditore deve andare lì a fare l'imprenditore e non a fare cose tra virgolette burocratiche. Trovarlo, la cosa fondamentale è il passaparola, ci sono tanti anche italiani che ti possono aiutare a trovare il miglior studio legale per le tue esigenze. E poi c'è un qualcosa che mi ha sempre molto affascinato parlando di innovazione negli Stati Uniti, ed è il networking. Se ne fa un gran parlare, è diverso da quello italiano e lo sappiamo, ma come funziona nella pratica per sviluppare il tuo business? Allora, assolutamente. Allora, il networking lì è fondamentale, è la base di tutto ed è forse la cosa più importante per uno startupper. Io quando sono andato lì ero un po' spaesato dal tipo di networking che fanno loro, è un networking molto più diretto di quello italiano, si gira molto meno intorno alle cose, si chiedono le cose subito, cioè io incontro una persona e posso permettermi di chiedergli mi presenti X, senza nessun problema. È molto usato il discorso di vado a guardare il tuo profilo LinkedIn, so che voglio parlare con due tuoi collegamenti, ti incontro e ti chiedo direttamente fammi parlare con i tuoi collegamenti. Quindi è un networking molto diverso da quello italiano, molto più efficace se si impara ad usarlo, ma non bisogna mai pensarla, secondo me, all'italiana, appunto, cioè di ok, sì, andiamo a cena, eccetera. È proprio un networking totalmente diverso. In un flash, quale idee di impresa vanno per la maggiore oltreoceano e quali settori anche nel mondo startup sono più di moda? Te lo chiedo anche come consiglio per i tuoi coetanei, magari volessero portarvi un'idea. Assolutamente. Allora, diciamo, l'idea americana, soprattutto di San Francisco, più che americana, è la tua idea deve essere una billion dollar company, cioè un'azienda che varrà più di un miliardo. A me mi hanno spesso detto la tua azienda non va bene perché ti comprerà un'altra azienda a 500 milioni, che in Italia sembra una cosa, oddio, magari ci cascano, lì non funziona, cioè non gli piace, devi essere il nuovo Uber, il nuovo Netflix, eccetera, eccetera. Questo vale in assoluto a San Francisco, un pochino meno nelle altre parti degli Stati Uniti. La cosa fondamentale è, a loro piace tantissimo qualcosa che cambierà il mondo. Questo è la base di che idee funzioneranno in America. Vita negli Stati Uniti, come trovare casa e quanto è anche forte la concorrenza del mercato immobiliare? Allora, trovare casa è complicatissimo, consiglio sempre di andare lì in un Airbnb all'inizio e poi trovare casa. Craigslist è l'unico più o meno sito fattibile, pieno di truffe, bisogna stare iper attenti e bisogna avere le idee davvero chiare. Trovare una casa, il giorno dopo andarla a vedere, pagarla direttamente e prenderla. Questo è la base del mercato immobiliare. Ogni giorno cambiano le case e costano veramente tanto. Edoardo, potremmo andare avanti per un'altra mezz'ora o forse anche più a parlare e raccontare questo mondo che hai sperimentato e stai sperimentando negli Stati Uniti. Purtroppo il tempo è tiranno e ci obbliga all'ultima domanda, la nostra domanda di rito. Quale primo consiglio pratico daresti a un giovane coetaneo che sta pensando a un espatrio? Vai all'estero ricordandosi della tua italianità e delle cose positive che abbiamo noi verso gli altri, che funzionano, piace. E secondo me, io lo dico sempre un po' da italiano che ama l'Italia, vai con l'idea di tornare, perché ti darà molto più la possibilità di imparare e riportare qui cose che hanno un reale valore. Bene, lasciamo la testimonianza di Edoardo Vallebella per passare alla rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Torna a tracciare il quadro delle più interessanti offerte di impiego attualmente aperte a livello internazionale Alessio Romeo, fondatore di Face for Job, nonché esperto in digital innovation e processi di HR transformation. Ascoltiamo allora cosa ha da dirci. Eccoci e buongiorno. Allora, in un periodo così critico sul fronte ospitalità e turismo, dedichiamo questo appuntamento all'analisi di un grande gruppo che opera nel mondo dell'ospitality di lusso e comprende marchi come Ritz-Carlton, Le Méridien, Starwood e Marriott, ed è proprio quest'ultimo che dà il nome alla corporate multinazionale che governa tutto il pool. Vediamo come si sta rilanciando in vista della stagione estiva e che opportunità di lavoro offre nonostante le complicazioni del momento. Parliamo di una superpotenza nel settore, con quasi 200.000 dipendenti all'interno di un pool di catene di hotel extra lusso presente in tutto il mondo con più di 6.500 locations e che conferma il suo posizionamento anche in termini di opportunità di lavoro offerte sul mercato. Le vacancies si distribuiscono tra opportunità presso gli hotel e a quelle all'interno delle aziende che nel back governano il prodotto finale, fino ai profili più junior con programmi per studenti universitari come ad esempio il programma Voyage di sviluppo della leadership. All'interno della loro rete globale, alberghiera mettono a disposizione un processo di formazione degli studenti universitari, dando anche loro un tutor per personalizzare la loro esperienza di apprendimento. Parliamo di migliaia di posti di lavoro offerti in tutto il mondo che a mio avviso sono un'enormità di opportunità considerando il momento molto penalizzante. La pagina Careers International si presenta con due facili campi di ricerca, parola chiave e location, e un terzo dato che permette di muoversi a un tot di miglia dal luogo scelto. La divisione più ricca di opportunità è quella denominata Food and Beverage e Culinary, con opportunità offerte che spaziano da tutte le varie forme di chef, direttori Food and Beverage, Manager Operations, Waiter Responsible Cucina, e ovviamente la quantità di offerte è tale che si trova collocazione un po' ovunque, anche nei brand più prestigiosi come quello di Bulgari Resorts. Al secondo posto come divisione in evidenza per vacancies abbiamo quella relativa a Rooms and Guest Services Operations, dal cosiddetto agent at your service, quindi colui che accoglie e accompagna ovunque il cliente richiede, lo assiste per i servizi richieste, al Guest Relations Officer at Receptionist. Sempre più rafforzate le location di lusso, specialmente quelle prestigiose del Medio Oriente o Maldive ed altri arcipelaghi paradisiaci, dove si crede molto in un turismo di elite per la stagione a venire, in cui i veri ricchi sono disposti a spendere tanto per stare sereni e opportunamente isolati. Continuiamo questo ranking rapido di divisioni, chiudendo con le altre che offrono opportunità di livello, come la divisione Housekeeping e Laundry, seguono Sales and Marketing, le divisioni Engineering e Facilities, Finance e Accounting e Information Technology. Tante opportunità anche sul fronte security per ovvi motivi contingenziali. E siamo giunti ad Internet Point, lo spazio di Generazione Mobile dedicato ai siti, ai blog e alle informazioni utili in rete create dagli italiani all'estero. Oggi vi vogliamo parlare di una nuova rete dei giovani italiani oltre confine, un progetto lanciato recentemente dalla principale organizzazione di riferimento dei nostri connazionali all'estero. Maria Chiara Prodi, presidentessa della Commissione Nuove Migrazioni del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, ci spiega nel dettaglio di cosa si tratta. Nasce quando si è insediato questo Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, quindi parliamo del 2016, e si preparava a un anniversario speciale, quello della conferenza dei giovani italiani nel mondo che si era tenuta nel 2008. Quindi da subito serpeggiava l'idea di poter rifare 10 anni dopo quella grande manifestazione che aveva coinvolto più di 400 ragazzi nel 2008. Al centro di questo progetto c'è una rete che state costruendo. Raccontiamo brevemente questa rete e poi soprattutto le utilità che potrebbe avere anche per chi sta andando all'estero o chi si trova già all'estero. La rete nasce dal seminario di Palermo che si è svolto dal 16 e il 19 aprile del 2019 proprio a Palermo, in cui le comunità di base di tutto il mondo, di Italia, quindi in particolar modo i comites e le consulte regionali per le migrazioni, hanno mandato un loro delegato o più delegati a questa iniziativa. Questa iniziativa aveva proprio come finalità quella di creare una rete di giovanile, intendendo una rete giovanile non come un ghetto progetto separato rispetto al più ampio mondo dell'immigrazione, ma come un volano di nuove energie proprio per rimettere la possibilità di rispondere a nuovi bisogni nelle istituzioni, nelle reti. Quindi ci siamo dati in quei 3 giorni le modalità più innovative per lavorare assieme, tenendo presente che i ragazzi avevano già avuto delle videoconferenze di preparazione, per cui si era già un po' preparato il lavoro prima di arrivare, e probabilmente il frutto più interessante di quel seminario, che vi invitiamo a scoprire sulla pagina seminariodipalermo.it, è la carta del seminario di Palermo, che si ispira un po' alla carta di Palermo, che parla proprio di poter esprimere partecipazione nel luogo in cui si risiede e aggiunge un tassello, quello che chi emigra riesce a portare esperienze e capacità di partecipazione, di cittadinanza attiva, facendo proprio un legame tra quello che è quelle che sono le sue radici e quello che è il paese in cui vive. C'è ovviamente l'idea del give back in questa rete che state creando, che avete intenzione di creare. Può essere d'aiuto in qualche modo anche a giovani che si trovano all'estero per interagire, per darsi una mano, per scambiare informazioni. Può esserlo assolutamente, e tra l'altro il nostro progetto, che è molto complesso, riguarda la creazione di una piattaforma che possa mettere in contatto direttamente i ragazzi tra di loro, con le istituzioni e con le comunità dell'immigrazione nei posti in cui vivono, vive già ora di alcune esperienze molto concrete. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.seminariodipalermo.it. Chiudiamo la puntata con i nostri input. Per interagire con noi, innanzitutto, ci trovate online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook nel gruppo Generazione Mobile Radio 24 o nella pagina Generazione Mobile. Siamo presenti anche su LinkedIn, sempre col gruppo Generazione Mobile. Ricordate soprattutto di scaricare i nostri podcast, lo potete fare direttamente dal sito di Radio 24. Questo vi permetterà di recuperare tutte le informazioni utili che potreste esservi persi nel corso della diretta. Internet Point resta la vostra rubrica di riferimento. Ogni ultimo sabato del mese portiamo le vostre lettere in onda. Avete domande da porre sull'espatrio, consigli utili da chiedere o testimonianze personali da offrire? Beh, scriveteci generazionemobile@radio24.it. Infine, la nostra trasmissione vive grazie anche ai nostri testimoni, giovani tra i 18 e i 40 anni, che ci raccontano il loro espatrio, le loro esperienze di studio, stage, lavoro, imprenditoria all'estero. Volete portare la vostra testimonianza, raccontare la vostra storia, ma soprattutto dare consigli utili ai vostri coetanei che in Italia vi ascoltano? Fate parte della nostra generazione mobile? Scriveteci e porteremo la vostra voce sulle frequenze di Radio 24. Per candidarsi basta scrivere a generazionemobile@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Generazione Mobile. Aspetto dunque i vostri contributi via email e vi ricordo anche che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13:30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.